a New York emigranti che andavano a cercare la fortuna nel grande mondo. Alla fine ha approdato anche a Ellis Island e per non farsi mancare nulla anche in Alaska, Nome. Ma lui poi torna, dopo 20 anni dell'assenza assoluta, torna in Montenegro, deciso di non sposarsi perché era ormai vecchio. Ormai vecchio avrà avuto 35 anni, 38. Sì, aveva ecco. 38 anni, però per quei tempi era un uomo ormai vissuto, anziano. Era diventato un uomo particolare, con grandi esperienze del mondo che lui portava proprio nel suo sguardo, nei suoi occhi. Aveva deciso di non vivere in montagna perché era troppo poco per lui, andò a vivere sulla costa montenegrina a Bar, un luogo paradisiaco come diceva lui, dove faceva il mastro costruttore, oggi direbbero era un imprenditore. Ad un certo punto suo padre, anziano, lo invita a rientrare al paese per qualche giorno perché doveva andare a chiedere in sposa una giovane ragazza per il fratello più piccolo. Lui obbedisce. Anche a 38 anni in Montenegro si obbediva assolutamente al padre, va su in montagna, si veste bello con il costume bellissimo montenegrino da fiero guerriero e l'uomo del mondo, va con un gruppo di altri a chiedere in sposa questa ragazza. Il padre fa una cosa molto strana per il Montenegro all'inizio del XX secolo ormai, chiama la ragazza, una ragazza di 16 anni, per niente da descrizione, per niente una slava, era piccola, era scura di capelli, scura di occhi, di pelle olivastra, molto intelligente. Gli chiede: senti, sono arrivati questi rispettabili amici compaesani e lui, senza volgere lo sguardo, vogliono prenderti in sposa per il figlio piccolo. Lei alzò questo sguardo bruciante, ma lo alzò in una maniera strana, così come si alza un fucile quando si è sicuri che è assolutamente indispensabile sparare senza pensare troppo alle conseguenze e farlo una volta sola. Lei puntò questo sguardo sopra le teste degli uomini e senza assolutamente fiatare disse: no, io non sposerò il figlio piccolo Luca, io voglio sposare questo, e indicò l'altro fratello, il grande, quello che era venuto a chiedere la sua mano per l'altro. Ci fu un silenzio assoluto, perché le donne all'epoca non contavano assolutamente nulla, la loro volontà non era assolutamente presa in considerazione, e questa poteva essere una grande offesa. Invece ci fu un consiglio tra gli uomini e si decise che comunque il fratello grande, quello che ha girato il mondo, sarebbe stato lo sposo della ragazzina, diciamo sfacciata, dell'inizio del secolo. Questa donna seppe prendere quello che desiderava e scorreva 1914, l'inizio della prima guerra mondiale. Loro ne hanno vissute parecchie da quelle parti. Questi due sposi ebbero molti figli, si vollero molto bene, si amavano tantissimo. Poi lei diede la vita di tutta una stirpe di donne molto forti, molto consce del loro posto nel mondo e nello stesso momento molto donne. Io ho la fortuna e l'onore di farne parte in terza generazione, perché ti ho raccontato la storia di mio nonno Milovan e di mia nonna Karina. La guardiana del faro. Qui Capitaneria di Porto. È in linea Fabio per Barbara Alberti. Pronto, pronto? Fabio? Mi vuole raccontare la sua storia? Sì, volentieri. Partiamo. Okay. Ho avuto un'esperienza in età adolescenziale, avevo 17 anni. Sono stato assieme a una ragazza e con lei mi trovavo benissimo, no? Era il classico primo amore di gioventù, ecco. Però c'era un piccolo problema che adesso ritengo piccolissimo, ma che all'epoca era grandissimo. Sostanzialmente io ero testimone di Geova e lei cattolica. C'erano parecchie pressioni familiari, la storia non proseguiva tranquilla. Ma una domanda, erano solo le pressioni oppure eravate tutti e due così fortemente religiosi da sentire questa differenza? Ma all'epoca sì, cioè Io ci credevo veramente tanto e lei anche, però non so dirle con sicurezza se questo crederci era dovuto al fatto che... Che vi tartassavano entrambe le famiglie? C'era una pressione costante. Ma come sta in Lucano Cattolica? Ma come sta con un testimone di Geova? Sì. Esatto, quelle cose lì. Sono stato insieme a questa ragazza, nonostante l'età e nonostante le pressioni, per 3 anni, andando avanti solo con la forza dell'amore, perché alla fine fossi stato poco innamorato di questa ragazza, al primo accenno della mia famiglia su questo fatto... Dell'opposizione, sì. Esatto, l'avrei lasciata perché sono debole di carattere. Vi vedevate di nascosto? I primi tempi sì, le dirò la verità. I primi tempi io ho nascosto tutto quanto, non lo dicevo a nessuno, e la vedevo di nascosto, prendevo il motorino, andavo, avevo paura di dire dove andassi, eccetera. Poi dopo, quando tutto è uscito alla luce, e anche tra i componenti della religione si è venuto a sapere di questa mia situazione, io lo facevo anche alla luce del sole, però sempre con... quest'ansia di fare qualcosa di sbagliato, ecco. Fine del primo tempo, e poi? E niente, la mia domanda, quella che adesso ho e che mi assilla tuttora, quella che anche le ho rivolto via mail, è se io ancora oggi per l'eternità dovrò subire il pensiero di questa ragazza, perché io non ho mai provato nulla del genere, non sono mai stato più innamorato in quel modo di una ragazza e lei mi ha scritto che sta con una ragazza che si può considerare felice, che sì. Soltanto che appunto non prova gli stessi sentimenti. Esatto, ma non li ho più provati, esatto. Sì. E sì, poi mi scrive una cosa che mi ha molto toccata. Cosa dovrei fare per fare in modo che il suo pensiero assillante, anche il pensiero di ciò che eravamo, non torni più, nemmeno sotto forma di sogni, come spesso esatto. Accade. Quindi lei la sogna? Molto spesso. Sono sogni che rimangono nella mente anche tutta la giornata. Quindi lei fa una doppia vita, di giorno vive con la sua ragazza e di notte con la sua ex fidanzata. Io non so se considerarlo una doppia vita, però mi fido di lei e del suo enorme sapere. Ma no, ma si figuri, ma questo glielo può dire un bambino di 3 anni, guardi, è così evidente. Sa cos'è, Fabio? Le manca sicuramente la proibizione, le manca la clandestinità, le manca quel sentimento che si rafforza attraverso l'opposizione. Però devo dirle, io al posto suo ci proverei una volta, ci andrei a prendere un caffè per vedere che effetto mi fa realmente, per capire che cosa provate l'uno per l'altra, perché... Le posso dire una cosa, è venuto a lavorare di fianco a me recentemente, 2 mesi fa, e io ho provato a dirglielo, ho provato a dire questa cosa, ho provato a chiederle di bere un caffè assieme, però lei è... a mio parere, ancora molto religiosa, e quindi mi ha detto, verrei volentieri, sono state le sue esatte parole, verrei volentieri a bere un caffè con te, ma ho talmente tanto rispetto per la storia che sto vivendo, perché anche lei adesso è assieme a un ragazzo, ho talmente tanto rispetto per questo ragazzo che non mi va, non è possibile, ecco, quindi... Non mi va di mettermi... quindi lei ci ha provato? Ah, sì. E anche con costanza, però... Cioè, perché lei è rimasta molto ideologica e molto... E lei no, lei mi ha detto che adesso non è più religioso. Comunque sì, può essere pure che sei innamorata pazza di quest'altro ragazzo, e in questo caso, caro Fabio, neanche Dio la può aiutare, nel senso che lei si deve sorbire questo dolore e questo tormento ad averla al fianco. Se lei si rifiuta persino appunto di rimanere sola con lei in un posto pubblico per 10 minuti, vuol dire anche che lei non è tanto sicura di sé, però, se fosse veramente sicura di sé, con tutto il rispetto da vendere che ha per questo fidanzato, 2 chiacchiere con uno che è amato come la sua vita, magari li troverebbe. Non vuole esporsi a una tentazione. È probabile. E infatti con questo le rimetto l'inferno, nel senso che lei sicuramente ci riproverà e comunque, sì. Senta, sai, in un certo senso è fortunato, perché le passioni tengono in vita, anche se fanno dannare. Sì. Senta, ma mi dica soltanto un'ultima cosa. Mi interessa molto il suo percorso di miscredenza, cioè lei è passato da una osservanza molto forte verso la sua confessione religiosa e poi poco a poco è diventato ateo. Come è accaduto questo? Sì. Ha avuto un peso il fatto che l'abbiano separata dalla sua ragazza? Guardi, le dirò, è stato il motivo principale, perché dopo un po' di tempo ci si rende conto che

барбату идут неизменно часовым полагается смена. La guardiana del faro. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la stilista Marta Marzotto è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Sei tu, Marta? Ma sì, ma dove sei? Sono in cima a un faro così deliro in pace, mi ci ha messo Gianluca Nicoletti. Forse è un faro che conosco, però ormai... Finisterre! Finisterre! Pensa che io... c'ho ancora, se lo vado a ritrovare, se non me l'hanno rubato, non l'ho regalato, un grande quadro di Sergio Vacchi e si chiama Finisterre. E allora ci sono voluta venire tanti anni fa e insomma mi ricordo una cosa, una grande scogliera, un fondo con strisce di nel tramonto, arancioni, neri, viola, quasi proprio fosse una fine del mondo. Senti Marta, io invece ricordo il primo incontro che ho fatto con te, ti ricordi? Venni a casa tua e ci aveva presentato Dario Bellezza, che tu allora... Adorato, che tu volevi sposarlo, dicevi per il nome. Sì, perché diventavo Marta Bellezza, mica ma, per altro. Ma in verità è perché non sei... Non si copulava comunque, lo sapevo. Ma perché eri, ed eri una gattara. No, eri una gattara, infatti, appena mai visto... Mi volevi regalare, mi ricordo, un quadro di Guttuso. Io non mi sono fidata, ho detto ma un regalo così costoso, poi se mi invita a cena non posso dire di no. E mi ricordo che ti dissi ma grazie Marta, ma io sono in bicicletta, non so come portarlo via. Senti Marta, e poi sai che ti ho messo anche nell'ultimo libro, si chiama Riprendetevi la faccia. Io figurati. E ti ho messo... ridatemi le mie rughe, ma sai, ti ho messo nelle... piccolo linking 30 anni fa, l'ho fatto 25, non so quando c'è stata la tragedia, quando è morto Renato. Io non mi sono più piaciuta, quel casino che hanno scritto, tutte le cattiverie, guardandomi allo specchio ho detto basta, cambio, è stato il mio primo errore. Dopo, riprendendo la mia passione di vivere, la mia franchezza con la vita, il mio non cedere comunque perché mi servono da spinta le avversità, i drammi, così ho detto io rivoglio le mie rughe, insomma. E infatti adoro D'Agospia lì, D'Agostino, perché dice non baciate la Marzotto che ti attacca le rughe. Ah sì, mi dicono non baciarmi che mi attacchi le rughe, sì. Io comunque come segno diabolico ho scritto nel libro, si è fatta rifare ma nemmeno il rastrello del chirurgo ha potuto estirpare la sua streghità, e le streghe sono incivilizzabili, quelle che sanno ridere, non le baccanti sguaiate volute dagli inquisitori. Spesso il loro diavolo le rende sopra ogni altra capaci di grazia, ironia e studio. Senti, mi racconti una giornata da mondina? Ma no, ma ero piccola, ero una ragazzina. Però ti ricordi? Avevo una paura. No, avevo paura dei topi. Quello che andavamo noi si chiamava Mondariso, ma era il trapianto del riso in realtà, perché c'era tutta l'acqua in questi prati, in questi campi allagati, e poi tu andavi, non potevi mettere degli stivali perché sprofondavi in tutto il fango fino a mezzo polpaccio. E quindi piedi nudi? Sì, per forza piedi nudi, capito? Per qualsiasi cosa. Allora ci fasciava con degli stracci così le gambe, ma poi si imbevevano tutto di fango e bisognava cacciarli. Andando a marci indietro nel fango, così col dito destro, col sinistro tenevi il mazzolino di trapianto di riso e col dito destro facevi, ed erano tutti filari, tutti perché rinculavamo diciamo insieme alle mondine, e lì facevi questa cosa. Però dopo un momento mi risentivi e sfrecciava via, che veniva fuori dall'acqua, i carbonati che sono degli enormi bisce di 2 o 3 metri, capito? Per cui ti veramente terrorizzavano, non facevano niente, però che tutti si arrotolavano magari attorno alla gamba e urlavi. Capisci? Oppure il topo, perché poi il topo, sai, non sono mica topolini di campagna, erano delle pantegane dentro l'acqua, proprio dei gatti, e ti sgusciavano via sotto i piedi, il terrore che mi si attaccassero alla caviglia, beh, insomma, questa è la monda del riso, cioè invece poi alla sera sulle aie, io ero lì a Mortara, per cui erano tutte lì vicino, insomma, erano 2 chilometri, allora c'erano tutte le mie cugine che venivano da Reggio Emilia, c'erano tutte le altre, e lì ti viene in mente veramente il film di Riso Amaro. E lì però io ero pazza di gioia, perché ballavo, cioè, avevo 12-13 anni, però ballavo con loro, con le donne, poi ballavano tutte tra di loro, non c'erano uomini, insomma, erano tutte donne. e poi dormivo qualche volta con loro, ma insomma, per me era anche una vacanza, era molto divertente, era un evadere la realtà, perché la guerra mi ha insegnato che si doveva vivere al momento, mai guardando troppo avanti e non pensando a quello che avevamo perso, che avevamo lasciato, ma io credo di aver vissuto il mio tempo piuttosto bene. Senti, sei un patrimonio dell'umanità. Ma che gioia la mia Alberta con la sua corona, quando ti metti quella treccia corona, ma le regine, ma che sono al tuo confronto? Ma figurati, l'ho lasciata una vecchia coda di volpe, l'ho lasciata in un cassetto. Mi è venuto in mente, ho visto, sono stata a Kiev, in Ucraina, e c'è una parlamentare, forse sì, anche... Sì. Presidente, quasi presidente dell'Ucraina, così bionda, con la treccia messa come la tua. No, lei la tiene piatta, io come le antiche contadine ucraine la tengo orizzontale. Quando l'ho vista ho detto, ma dov'è Alberto? No, чем тебе потрапить, мой кузнечик, едва твой гимн пространство огласит. Прислушаться он от скорби излечит, а вслушаться из мертвых воскресит. È tipico di chi viene lasciato, che poi maledice la persona che l'ha lasciata come se non valesse nulla. Perché d'un tratto, essendo stato lasciato o lasciata, non considerano più quella persona alla loro altezza. E c'è una poesia che esprime questo magnificamente. È una poesia di Marina Tsvetaeva, la poetessa russa. Come state con quell'altra? Più semplice, vero? Un colpo di remo? Come state con una donna semplice, senza divinità, deposta dal trono la sovrana e da essa disceso? Come state? Vi date da fare? Vi raggrinzite? Vi alzate come? Con il dazio dell'immortale mediocrità. Come ve la cavate, poveretto? V'è più connaturato e commestibile il cibo? Come state con un simulacro, voi che avete calpestato il Sinai? Come state con un'estranea, con una terrestre? Come state? Come vi sentite? Cosa potete? Cantate? Come? Come state con un articolo da mercato? La servitù è dura? Dopo i marmi di Carrara, come state con la polvere di gesso? Come state con una centomillesima, voi, che avete conosciuto Lilith? Dell'ultima novità di mercato siete sazio? Stanco delle maghe, come state con una donna terrestre, senza i sesti sensi? Via, per la testa, siete felice? No? Nella frana senza profondità, come state, mio caro? È più pesante? È forse così, come per me, con un altro. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.